America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York. Mario Platero. General Joseph Dunford wrote a letter to military leaders Thursday, July 27th. In it, he says there will be no modifications to the current policy. John Dunford, che è il capo dello Stato Maggiore delle Forze Armate americane, ha risposto a Trump sulla questione dei transgender. Dice: per ora non cambia nulla. Beh, siamo arrivati, come dire, uno potrebbe dire all'insubordinazione, perché Donald Trump è il capo supremo delle forze armate e il fatto che un suo sottoposto si permetta di dire di non essere d'accordo con l'ordine del presidente, l'ordine quantomeno imminente, beh, è singolare e dà un'idea di quanto la situazione sia confusa. Ci sono una serie di cose, devo dire, che si stanno affollando nella capitale, perché sta arrivando l'estate. Donald Trump chiede ai senatori, chiede al Congresso di fermarsi, ma io non credo che poi si fermeranno, anche perché sembra, da quel che abbiamo visto di nuovo ieri, che questa richiesta poi non produca un granché. Ci sono stati quattro senatori che ieri di nuovo, quattro senatori repubblicani, hanno di fatto bocciato una richiesta di una modifica relativamente parziale della riforma sanitaria di Obama. E questo è un segnale di quanto il Partito Repubblicano sia davvero incapace in questo momento di trovare una sua unità, di esprimere una linea chiara. E dunque ora anche noi che a Radio 24 stiamo per cominciare il cambiamento di palinsesto per l'estate, e dunque America 24 per alcune settimane non andrà in onda, beh, credo che approfitto di questa giornata per darvi anche un po' un quadro di quello che è successo, per fare, come dire, una grande carrellata sulla situazione in cui ci troviamo a Washington. Sentiamo intanto Donald Trump. Inaction is not an option, and frankly I don't think we should leave town unless we can give our people great healthcare. Ecco, ho scelto questa frase simbolica di questi primi sei mesi di amministrazione Trump, perché il presidente dice: l'inazione non è un'opzione. L'inazione non è un'opzione, però purtroppo inazione è il risultato di questi primi sei mesi. Mi ha molto colpito, credo che tutti dovranno riflettere nel momento in cui andranno in vacanza, nel momento in cui anche i parlamentari americani, anche Donald Trump, tra l'altro non sappiamo dove, se Donald Trump andrà in vacanza, sarà naturalmente molto indaffarato, ma credo che sia importante che dovunque vadano riflettano sulle parole dell'eroico senatore John McCain, che l'altro giorno, pur essendo stato diagnosticato con un cancro terminale al cervello, ebbene si è recato in Parlamento per partecipare al dibattito e al voto sulla riforma sanitaria. Non abbiamo concluso niente, ha detto John McCain, abbiamo soltanto approvato un giudice per la Corte Suprema e poi null'altro. Che cos'altro resta da fare? Beh, ci sono molte cose da fare, a parte la riforma sanitaria che è ferma e che è un punto chiave per poi sbloccare altre iniziative legislative. Beh, è innanzitutto la riforma fiscale. La riforma fiscale è una pietra angolare del programma repubblicano, non soltanto di Donald Trump, dell'intero Partito Repubblicano. Eppure, di nuovo, all'interno del partito, invece di trovare un compromesso, un'idea su come procedere, si litiga. Ma il problema più importante è che non ci sono i soldi per poter finanziare il taglio fiscale fino a quando non si sarà raggiunto un accordo sulla riforma sanitaria. E questo non credo che verrà davvero molto presto. L'altro progetto fermo è quello per le infrastrutture, un progetto da 1.000 miliardi di dollari. Il Muslim Ban, a ottobre conosceremo il verdetto della Corte Suprema, questa è una cosa a cui guardare, perché la Corte Suprema per ora ha consentito a Donald Trump di applicare una parte delle sue richieste di difficoltà per l'immigrazione da paesi islamici, ma si attende poi il verdetto finale della Corte Suprema. E sentiamo di nuovo Trump, questa volta su ISIS. We will defeat radical Islamic terrorism, just as we have defeated every threat we've faced at every age and before. Ecco, sul fronte della politica estera c'è un fronte, come dire, a pelle di leopardo. Perché? Beh, perché sull'ISIS si sono fatti in effetti dei progressi, però ci sono altri problemi. È vero che è caduta Mosul, dovrebbe cadere Raqqa molto presto. La Siria, il rapporto con la Russia, si riuscirà davvero a trovare un accordo? Ma sembra che ci fosse stata la possibilità di un'intesa. E poi, di nuovo, proprio ieri il Senato ha approvato, dopo la Camera, sanzioni durissime contro la Russia, nuove sanzioni per aver interferito con le elezioni americane. Proprio il caso su cui sta indagando l'ex capo dell'FBI Mueller. E dunque anche su questo Donald Trump dovrà decidere. Io credo che alla fine non potrà decidere in modo diverso da quello che è stato un voto pressoché unanime del Congresso. Ma certo, questo non aiuterà la ricerca di un'intesa sul fronte siriano. Questo è sicuramente uno dei temi centrali da seguire nel corso della nostra estate. Another attack from the president this morning on his own attorney general Jeff Sessions. So not only does he call Jeff Sessions beleaguered, he says he is not doing his job. Ecco, in questi sei mesi, beh, le lotte intestine alla Casa Bianca hanno portato delle conseguenze non brillanti, perché in sei mesi Donald Trump ha dovuto rinunciare a Mike Flynn, che era il suo consigliere per la sicurezza nazionale, perché coinvolto nel Russiagate. Il suo portavoce, Sean Spicer, ha poi nominato il signor Scaramucci. C'è stato poi il siluramento del capo dell'FBI, James Comey, e poi la nomina da parte del suo Dipartimento della Giustizia, per questo i veleni anche contro Jeff Sessions, di Mueller, che sta conducendo un'inchiesta a tutto campo sul Russiagate. E dunque chiediamoci come finirà Jeff Sessions. Io credo che a un certo punto, se continueranno questi attacchi, dovrà andarsene. E ci sono poi le fughe di notizie. Trump vuole assolutamente finirla con questa fuga di notizie. Licenzierò tutti, ecco che cosa farò, ha detto proprio Scaramucci, di cui vi parlavo prima. E il problema è che bisogna capire chi è l'origine di questa fuga di notizie. E sapete chi è? Beh, è Donald Trump in persona. Chiama gli amici, chiama i giornalisti e a un certo punto fa degli sfoghi in cui dà rivelazioni che certamente non avrebbe dovuto dare. Il Russiagate entrerà nella sua fase più calda e questo sicuramente sarà il tormentone dell'autunno, perché a quel punto l'inchiesta di Mueller si avvicinerà alla fine. Ecco, questo quadro, devo dire, non è un quadro rassicurante e dunque speriamo che l'estate porti buoni consigli e pensiamo all'estate, perché l'estate americana è qui fra noi e sarà comunque un'estate gioiosa. Elvis Presley, il grande Elvis Presley, questo è stato il suo ultimo concerto live nel 1977, quando ha cantato That's All Right, ma sì, alla fine va tutto bene, perché sono partito in questa carrellata estiva americana con Elvis, perché siamo arrivati ai 40 anni dalla sua morte. Morì a Memphis il 16 agosto del 1977 e pensate, si aspetta Graceland è la sua casa santuario di Memphis, si aspettano 1 milione di persone per il 16 agosto, 1 milione di pellegrini, sapete le leggende che circolano su Elvis? Molti dicono che è ancora vivo, che è nascosto, insomma, resta un grande mito a 40 anni dalla morte, resta un grande mito americano. E restiamo sulla musica, perché ci sono una gran quantità di festival musicali. Questo è Lollapalooza edizione 2016 che vi ho fatto ascoltare. Il 2017 sarà un replay. Quest'anno Lollapalooza sarà a Chicago. Ci saranno artisti in arrivo da tutto il mondo. Sono attese fra le 160 e le 200.000 persone. Per cui se vi troverete nel Midwest, beh, segnatevelo. 4 giorni di musica non stop a partire dal 3 agosto. Ma l'estate americana non è fatta solo di concerti, di musica, è fatta anche di motori, ci sono corse di ogni genere, raduni dei bikers, i più famosi sono quelli che si svolgono a Daytona e a Laconia, ma il vero appuntamento è per la fine d'agosto a Milwaukee, perché ogni anno, e di nuovo quest'anno, ci sono le celebrazioni per l'anniversario della Harley Davidson e si aspettano anche lì una gran quantità di persone, qualcuno stima almeno 80-90 mila bikers. Fine agosto appuntamento con Burning Man Festival nel deserto del Nevada, è una specie di happening anarchico, arrivano 75, 80, 90, 100.000 persone. Beh, infine i viaggi nei parchi naturali americani, grandi parchi naturali che restano una delle mete preferite per le vacanze americane, per le vacanze delle famiglie americane. Yellowstone, Yosemite Park, Monument Valley, il Grand Canyon. Pensate che gli Stati Uniti oggi hanno più di 400 aree protette. La loro superficie raggiunge i 210.000 km quadrati. Stiamo parlando di quasi 2 volte la superficie dell'Italia. E dunque andateci in questi parchi e se non potrete andarci, beh, andate nei nostri parchi. Difendiamoli, aumentiamoli, guardiamo i parchi americani come ispirazione. Visitiamoli, perché anche i nostri parchi, nel loro piccolo, sono bellissimi. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione, ma apre come sempre una nuova frontiera inesplorata. Potrete continuare a trovarli su mario24.com. Seguitemi su Twitter @mario_platero ed eccoci